Anni 10, suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. I get up at 4:45, go open the shop, get some coffee, read my paper, answer emails, do paperwork, go to the gym, come here. Questa è l'agendina quotidiana di un personaggio non molto ben visto in queste settimane in America. Peraltro anche il nome che gli ha dato la madre natura, il destino, Jesse James, è lo stesso di un famoso, forse il più famoso bandito d'America. C'era una certa predestinazione in questo nome, ma le cose poi anche per il contemporaneo Jesse James sono finite piuttosto male. Adesso vedremo perché ne parliamo, proprio nel giorno di Pasqua. Bene o male, con l'esaurimento della Quaresima c'è anche, no, una visione su un futuro che si colora anche di aspirazioni di felicità, e proprio attorno al tema della felicità gira un editoriale molto molto interessante pubblicato sul New York Times di questa settimana da David Brooks, che è uno dei più apprezzati, anche dei più acuti editorialisti del quotidiano di New York. Si parla di felicità, ma si parte da un dato reale, da un episodio di cronaca che anche in Italia è arrivato perché coinvolge una superstar, nella fattispecie una celebre attrice che si chiama Sandra Bullock, premiata quest'anno con la statuetta dell'Academy, con l'Oscar, per la sua recitazione in un film, peraltro a sua volta piuttosto controverso, che si chiama Blindside, ma nel frattempo al centro di una vera e propria tragedia coniugale, perché suo marito, per l'appunto, è il nostro Jesse James. Il nostro Jesse James è un ragazzaccio a tutti gli effetti, lo si vede già guardando la fotografia. Poi, se approfondite un po' la sua biografia, vi rendete conto che è uno, insomma, dal quale stare lontano, sposarselo è veramente una scommessa. David Brooks parte da questa storia, quindi, no, da questa storia a bivio, no? Un bivio: imboccare la strada del successo professionale, come ormai per Sandra Bullock sembra veramente alla portata di mano, anzi ben oltre, ormai è una accertata star e potrebbe diventare veramente una top star del cinema americano dopo essere stata per molti anni una attrice assai apprezzata, oppure lasciarsi andare un po', come sembrerebbe in questo momento nei suoi sentimenti, a questa disperazione, tristezza, voglia di rinunciare, rabbia, ira per questo matrimonio che va a rotoli, e soprattutto per la scoperta delle solite seriali malefatte di suo marito Jesse, che più passano le ore più vengono fuori delle signorine, di solito estremamente tatuate, che dicono: ho avuto una lunga relazione con Jesse, siamo molto amici. Ma intanto lei, come dire, ritirava l'Oscar. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people. Questo è il trailer di The Blind Side, la storia di un enorme ragazzone nero, giocatore di football dal roseo futuro, che arriva in una casa di bianchi a vivere, ad abitare, e quindi, come dire, destabilizza un menage. Di menage destabilizzati, appunto, Sandra Bullock se ne intende parecchi. Ma David Brooks, il nostro giornalista del New York Times, cosa fa? Connette, universalizza la storia della attrice, e dice: ma insomma, questa questione della felicità è ora che proviamo a capire di che si tratti, no? Dove la incontriamo. E arriva rapidamente, anche utilizzando uno studio al riguardo condotto dalla Brookings Institution, uno dei più importanti think tank di Washington, che studia soprattutto la società americana, si comincia a capire che il rapporto degli americani, ma secondo me degli occidentali in genere, con la felicità è particolare e non passa tanto dalle parti della carriera. Le inchieste, le interviste raccontano un altro scenario. Non è il guadagno, non sono i quattrini, anche se poi siamo sempre pronti tutti a dirlo, no? Che magari si guadagnasse più, magari il lavoro ci garantisse finalmente soddisfazioni, però pare proprio che non è lì che siede il segreto di una vita felice, di una vita serena, di una vita che si sente, no, compiuta in se stessa, ma sta del tutto altrove, sta fondamentalmente proprio in quel, no, tanto bistrattato cuore che la nostra Sandra Ballo, che è andata ad aprire addirittura in televisione, addirittura da David Letterman, è andata a raccontare come questo suo matrimonio, insomma, zoppicava. Now, and how long have you guys been married? We're getting on 4 years. 4 years. So in any relationship, it's a give and take. And, yes. And has any of what he is known for become of interest to you? Well, I mean, you know, as I've taught him about important things like Christian Louboutin shoes, you know. Insomma, David Letterman, già da come pone le domande si capisce che vorrebbe dire a Sandra, ma sei proprio convinto di quello che ti sei sposato? Quello lì è uno che costruisce chopper, moto da Los Angeles. Quello è uno che ha delle strane amicizie, che è stato in galera, che ha 10 denunce per truffa e altri guai di ogni genere, sicuramente frequentazioni poco raccomandabili, pare che si droghi, adesso l'hanno fotografato che fa il saluto nazista mentre va in clinica di disintossicazione, ma chi diavolo ti sei preso? Eppure la felicità, dicono i saggi del Brookings Institute, passa per il cuore. Si è felici a 20 anni, poi si è lungamente infelici, dicono sempre quelli del Brookings Institute, poi si ridiventa felici intorno ai 65, ma tutto questo si è supportato da una soddisfazione sentimentale e poi anche da una soddisfazione ambientale. Conta molto vivere in un posto sicuro, avere fiducia nei propri vicini, nei propri cari, naturalmente nel proprio partner. E il sesso, quel sesso che Jesse James ha così inseguito selvaggiamente con le sue ragazzotte tatuate della California, beh, secondo questa inchiesta invece il sesso seriale è proprio quello che dicono in questo momento i rotocalchi americani, una specie di malattia, no? Si può coniugare con il potere, con la trasgressione, con il relax del potente, ma dicono loro, e noi non dobbiamo far altro che fidarci, che non è lì, è nel cuore che stanno i segreti della vera felicità. Anni 10, figure. God created everything, right? The heavens, seven seas, Marine Corps. God created Japs too, right? Allora, vi abbiamo consigliato un giornale da sfogliare in apertura. Vi voglio dire ancora il titolo dell'articolo di David Brooks. Si chiama The Sandra Bullock Trade, l'affare condotto da Sandra Bullock. Se vi capita di leggerlo su internet, potete ragionare sulla felicità, potete ragionare invece sulla infelicità, e potremo anche noi, perché Sky già sta facendo una campagna di rilancio assai densa sulla infelicità, sulla guerra, sul dolore, sulla sofferenza dei militari al fronte, vedendo quello che è stato chiamato da Time un vero capolavoro della produzione televisiva, proposto da HBO, si chiama The Pacific, è in onda in America e lo sarà dopo l'estate in Italia, racconta l'altra guerra rispetto all'altro grande successo televisivo, grande stile naturalmente, sulla di ambientazione bellica, si chiama Band of Brothers, forse ne ricorderete tracce, un prodotto di inizio del decennio con il coinvolgimento di Steven Spielberg. In The Pacific non si è più in Europa, ma si è nello scenario orientale, è un'altra guerra, la guerra che gli americani combattono con il Giappone, e come acutamente osserva il critico di Time, tessendo le lodi di The Pacific, quanto la guerra in Europa era comunque una guerra per obiettivi e in scenari, in cornici, in atmosfere conosciute, perché per l'Europa, per gli americani, era naturalmente un luogo familiare o comunque risonante, tanto invece quell'altra è stata una guerra con un che di fantascientifico, perché si andava a combattere con un nemico di cui si sapeva pochissimo in luoghi esotici, sconosciuti e tutt'altro che ospitali. Era una guerra che aveva a che fare con la malaria e con i pozzi avvelenati o con gli scarafaggi nel riso quanto con i colpi di mortaio. Viene definita una visione tragica ma essenziale e al tempo stesso drammaticamente pregnante, questo The Pacific, che quindi aspettiamo di vedere presto anche in Italia. The Moon Man. The Moon Man. For Best New Artist goes to Lady Gaga. Lady Gaga! Non c'è puntata di Anni 10 che non si parli di Lady Gaga, è indispensabile a questo punto. Tra l'altro vi segnalo, per i Lady Gaghiani, ma credo si dica più o meno così, che c'è una copertina e una cover story interessantissima sulla New York Magazine, intitolata La costruzione di Lady Gaga, ed è la storia di come una ragazzina con moltissime aspirazioni, anche una certa arroganza nella propria certezza di raggiungere il successo, abbia poi realizzato quello che ha realizzato, raccogliendo a tutti gli effetti ormai lo scettro di Madonna come regina del pop. La notizia di ambito televisivo è parallela, è vicina nei dintorni di questa santificazione di Lady Gaga, e riguarda Glee, che è un altro serial televisivo che in questo momento gode di grande fama e interesse soprattutto da parte del pubblico più giovane, una specie di Saranno famosi in edizione Anni 10, lo si vede anche in Italia. Ebbene, Lady Gaga entra a far parte del serial, i protagonisti di Glee canteranno delle canzoni di Lady Gaga, e secondo me, annusando un po' l'aria, c'è la possibilità che a un certo punto Lady Gaga, magari in uno dei suoi micidiali, no, mascheramenti, metamorfosi, ci metta la testa, la faccia e la voce. I don't see me as a celebrity. I see me as someone who is the governor of a big state, who's been falsely accused of things he didn't do. I'll be vindicated when the truth comes out, but in the meantime, Adesso lo so, io ve l'ho fatto sentire per qualche istante perché è piuttosto irresistibile, però bisogna avere un gusto perverso degli accenti americani, perché vi garantisco che questo signore parla qua sotto, parla un inglese molto molto strano, tanto più se si tratta di un governatore, nella fattispecie ex governatore, tanto più se si tratta di un ex governatore riciclato personaggio televisivo. Stiamo parlando di Rod Blagojevich. Chi seguiva a suo tempo Jefferson sa che è un eroe di queste stazioni, del conduttore che vi parla, naturalmente un eroe negativo, perché non esiste personaggio della politica americana più negativo di questo, al punto che la domanda che ci siamo sempre fatti e sempre ci continueremo a fare è come hanno fatto gli elettori dell'Illinois, che poi è uno stato di gente seria, di lavoratori che ci pensa a fare le proprie scelte, come diavolo hanno fatto a mandare al governo dello stato un personaggio come Rod Blagojevich, travolto da scandali di ogni genere, soprattutto quello di aver cercato di vendere il seggio lasciato libero, il seggio senatoriale lasciato libero da Barack Obama, che si avviava alla Casa Bianca. Lui dietro cercava di monetizzare quella prerogativa che aveva in quanto governatore di nominare il sostituto di Obama. Insomma, spazzato via da uno scandalo di dimensioni micidiali, lui non si è mosso più di tanto, anzi non si è mosso per niente, non si è mosso neanche il suo proverbiale ciuffo, la sua pettinatura tenuta su, secondo me, da un budget in prodotti di bellezza non indifferenti, e si è riciclato personaggio televisivo. È la star in questo momento di Celebrity Apprentice, che è questo programma voluto da Donald Trump, un altro che si è riciclato ormai personaggio televisivo. In pratica dei famosi devono cercare di raccogliere soldi per una buona causa, quindi da devolvere a una buona causa, secondo me Rob Blagojevich li vorrebbe devolvere soprattutto a se stesso, ottenendo dei risultati manageriali, quindi aprendo un ristorante, gestendo una ditta, facendo affari di qualche genere. Di solito falliscono tutti. Blagojevich, con la sua parlantina, il suo ciuffo, sta facendo strada nel gioco di Donald Trump. Soprattutto, come dire, per lui si prospettano un formidabile futuro da eroe dei reality show. In realtà il reality show andrebbe fatto semplicemente su Rod Blagojevich. La critica è concorde, ne grida nel sudicio, perché non hanno capito, non parlo perché sono gradito, e poi in faccia non sono mai quadrato, però dal pubblico sono venerato. Dal pubblico son venerato, diceva l'ottimo Elio in questo, insomma, un inno di una certa Italia. Si chiama John Holmes, questo pezzo cantato da Elio e le Storie Tese, dedicato a ridicolizzare, ma in fondo anche poi, no? a celebrare un grande del genere porno, una leggenda del genere porno, che abbiamo ripescato perché stanno succedendo delle cose strane in quella industria sotterranea, ormai molto raccontata, molto indagata dai media d'oltreoceano e non solo, che si muove in California nelle strade parallele, nelle stradine un po' più brutte rispetto a quelle dove ci sono i grandi studios, le majors e quant'altro, che è tutta l'industria del porno, soft, hard e quant'altro in America. Perché se ne parla? Perché sta succedendo qualcosa di industrialmente molto importante da quelle parti, ovvero che cosa? Ovvero Avatar. Avatar ha definitivamente sancito l'entrata del cinema nel terzo millennio e quindi nel 3D, la validità della tecnologia, dell'ultima tecnologia, e soprattutto l'accesso, l'arrivo, la disponibilità di una tecnologia consumer a basso costo. E che cosa è successo? Come indaga in un articolo molto divertente The Daily Beast, che è il giornale online diretto e fondato da Tina Brown, colei che fece grande Vanity Fair, che è nato il porno in 3D, un porno in 3D che le cui prospettive, i cui risultati, i cui effetti noi purtroppo non li conosciamo, ma secondo questo articolo sono sterminati, quindi si prevede una grande mobilitazione dal punto di vista di questa industria underground in questa direzione, che poi è poi una direzione un po' di tutti, perché poi arriveranno sicuramente i film di guerra in 3D, arriverà insomma tutto questo accesso a una realtà virtuale che negli anni 90 disegnavamo un po' in modo diverso, no? Ci siamo resi conto che è un po' meno, no? Le macchine non volano e i film in 3D non sono proprio come la vita vera, però sicuramente l'effetto c'è, il trucchetto commerciale funziona, e di queste cose credo ne sentiremo parlare parecchio nei prossimi mesi. You know, it's true, when something exceeds your ability to understand how it works, it sort of becomes magical. And that's exactly what the iPad is. Insomma, se capisci come funziona, poi te lo compri. Questa è la sintesi dello spot che abbiamo appena ascoltato, che è uno spot dell'iPad, il nuovo misteriosissimo, che nessuno l'ha visto, Mark Ingenio della Apple, che sta sempre per invadere il mercato, però non invadono. Dicono: abbiamo già venduto 500.000 pezzi, 5 milioni di ordini, nessuno ha mai visto l'iPad. Ma Newsweek, uno dei due settimanali più importanti d'America e forse del mondo, questa volta si mobilita sul serio e ci fa un articolone enorme chiamato Think Really Different. Sapete che pensa diversamente è un vecchio slogan Apple, un articolo lunghissimo, una cover story centrale del giornale a firma di Daniel Lyons, in cui si prova a spiegare perché l'iPad e tutta la famiglia di tutto ciò che sarà poi nel solco dell'iPad è destinato a diventare una macchina magica, ma anche una macchina del quotidiano globale, planetario, qualcosa che pensavamo, di cui pensavamo di non aver bisogno, ma che poi al momento in cui ce l'hanno messa davanti, ci hanno fatto capire che cosa se ne poteva fare, improvvisamente è diventata indispensabile. Ha un potere di trasformazione reale questa macchina. Pensate come iTunes ha cambiato, no, il modo di consumare musica, qui c'è il modo di consumare cultura, spettacolo, intrattenimento e naturalmente comunicazione in ogni direzione. L'articolo di Newsweek è anche piuttosto duro nei confronti delle politiche della Apple, sottolinea come la Apple ormai sia diventata una specie di Scientology della tecnologia, perché il sistema è perfettamente chiuso, ma conclude l'articolo di Newsweek, sarà pure un sistema chiuso, il problema è che ci vogliamo entrare tutti. Anni 10. Suoni. Give me one last hug. There's a dream that I've been insomma, cosa c'è di nuovo in questi anni 10 nel mondo dei suoni, suoni musicali naturalmente, soprattutto? Beh, in questo caso l'adagio dovrebbe essere l'avete voluto YouTube e adesso ve lo beccate annessi e connessi, ovvero annesse le storie e i personaggi che attraverso di essi si veicolano. Questa infatti è la storia e il segreto del signorino a 16 anni, possiamo chiamarlo così, che state ascoltando in sottofondo con questa vocina che ci ricorda vocine ben più gloriose e altre iniziali. Qui le iniziali sono JB, quelle erano MJ, magari avete capito di chi parliamo. Qui si parla invece di Justin Bieber. Justin Bieber è appena entrato in classifica, nelle classifiche americane, direttamente al primo posto con il suo nuovo album My World 2.0. Ma chi diavolo è Justin Bieber, direte voi? Chiedetelo ai vostri figli e potrei chiudere qui la questione, oppure ve lo dico rapidamente perché la storia merita di essere raccontata, soprattutto appunto per questo segreto che contiene, che è YouTube o comunque internet o comunque la comunicazione istantanea o comunque la possibilità per un ragazzino di 10-11 anni, perché questa è l'età in cui Justin Bieber ha cominciato con la collaborazione di sua madre Patty, di provare a diventare famosi direttamente da casa senza muoversi dalla cucina di casa mentre faceva merenda con pane e pasta di noccioline. Qual è la questione è che fin da giovanissimo Justin, con il contributo della madre inizialmente di qualche musicista locale, ha cominciato a postare delle canzoni su YouTube, delle canzoni che di solito erano versioni di canzoni celebri, non so, di Justin Timberlake o quant'altro, ben fatte, ben confezionate, soprattutto a questo ragazzino con un gran frangione, la faccetta caruccia, che inevitabilmente sarebbe stata notata dai suoi pari età, quindi i decenni, undicenni e dodicenni. La cosa ha cominciato a funzionare molto bene perché in modo virale, no? Si è sparsa la notizia, i ragazzini se ne sono accorti. A un certo punto mamma, Patty e Justin sono montati su un aereo, sono andati a trovare ad Atlanta uno dei re del pop americano che si chiama Usher, che è uno che di dischi ne ha venduti tanti a milioni, prima rap, poi R&B e poi dischi to cure, buonanotte, ed è nato il fenomeno Justin Bieber, iniziali che non so, sono le stesse dei Jonas Brothers, provate a pensarci, noi non sappiamo se poi questo è il vero nome di Justin Bieber, però sicuramente se andate su un elenco internet accanto ai Jonas Brothers, che sono il penultimo, no, grande successo per i ragazzini, per i teenagers, immediatamente trovate con le stesse iniziali anche Justin Bieber, che adesso vende altrettanti dischi quanti Jonas Brothers. Sulla biografia di Justin non ho nient'altro da dirvi, perché come dicevo ha 16 anni di fatto, invece ho da dirvi che con 283.000 copie ha dato uno scossone alle sonnolente classifiche americane e che tra questione di ore, forse di minuti, comincerà a riempire anche casa vostra se c'è qualcuno sotto i 16 anni da quelle parti. Tears you let hit the floor. How many bags you pack just to take them back? Tell me that. How many either or? There's no more. If you let me inside of your world, there'll be one less lonely girl. Oh, saw so many pretty faces. Oh, I saw you. Now all I see is you. I'm coming for you. I'm coming for you. No, Vabbè, avete storto un po' il naso perché vi facciamo sentire questa musica per ragazzini, ma questa è cultura popolare, ragazzi, dovete sapere che cosa incombe su di noi, incombe Justin Bieber, e tutto sommato forse è il male minore. Però passiamo invece a cose più adulte da segnalare a dei signori, insomma, con delle aspettative anche artistiche un po' più ricercate, e vi parliamo della classica artista che soddisfa le aspettative musicali più ricercate. Si chiama Erykah Badu e ha fatto una operazione molto particolare. Ha ambientato il suo nuovo video in uno scenario per gli americani sacro e forse anche intoccabile. Il video si chiama Window Seat, il posto vicino al finestrino, e lo scenario in questione è Dallas, e nella fattispecie quella fettuccia di strada di Dallas lungo la quale è avvenuto, è andato in scena l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Come lo ha affrontato, come lo ha vissuto, come lo ha inscenato in questo video che ha fatto immediatamente molto rumore in America e che potete trovare, titolo, lo ripeto, Window Seat, lo potete trovare su internet facilmente. Ha camminato lungo quella fetta di strada, peraltro piena di turisti, di curiosi, gente con macchine fotografiche, Erykah Badu, un po' alla volta, spogliandosi di tutti i suoi vestiti, fino a restare completamente nuda, però pixelata, quindi mi dispiace per i guardoni, ma non si vede nulla, però cercando di compiere un gesto di una rappresentatività di protesta, no? In un album che veicola il brano, che si chiama New America, e America è scritto come Erykah, parte seconda, un album che vuole avere un gusto di quella vecchia protesta americana un po' legata al XX secolo. E non a caso, a un certo punto, mentre cammina ed è nuda e la gente tutto attorno la guarda male, si sentono anche delle voci di persone che dicono: ma che fai, non ti vergogni, cosa del genere. Succede qualcosa, arriva, si sente, si immagina che arrivi un colpo di fucile e lei naturalmente cade. Sono le raffinatezze vocali, ma anche i ragionamenti di Erykah Badu in questa Window Seat, un po' la canzone caso, il videoclip caso della settimana negli Stati Uniti, e per fortuna, grazie alla tecnologia, condivisibile. La canzone è bella, il video vale una occhiata, c'è una solennità, una provocazione, forse anche una certa voglia così di stupire nella messa in scena, ma giudicate voi e dategli e dategli un'occhiata. C'è un'altra storia particolare attorno ai fatti, alle cronache musicali americane di queste settimane, che vale la pena di essere raccontata. Riguarda Lil Wayne, che è uno dei rapper più amati della scena americana, un rapper che arriva dal sud, dagli Stati del Sud, a 27 anni. E il suo vero nome è Dwayne Carter ed è alla fine entrato in carcere e sconterà una condanna probabilmente di 8 mesi, al termine del quale poi scatteranno i meccanismi legali in grado di riportarli a casa. Però questi 8 mesi di carcere se li farà a tutti gli effetti, perché a tanto è stato condannato per possesso di un'arma da fuoco trovata nell'autobus con il quale si spostava da un concerto all'altro per una sua tournée, una cosa che risale al 2007. Pensate un po', poi per 2 volte Lil Wayne è riuscito a sfuggire alle sbarre. La prima volta riuscendo a ottenere un rinvio perché doveva operarsi a un dente in cui aveva piantato dentro un diamante. E in America, se tu sei una star del rap e hai un diamante nel dente, dici no, aspettate, non posso entrare in galera perché mi devo operare il diamante al dente. Lì lo fanno prontamente. La seconda volta stava andando a ricevere la sentenza ed è bruciato il tribunale, quindi Lil Wayne è tornato un'altra volta a casa. Al terzo giro è andata male, è entrato a Rikers Island, il carcere di New York, dove però risiederà nella sezione VIP, che è una sezione interessante dove sono in 18, hanno celle singole, hanno una sala dove possono trovarsi i 18 famosi insieme e guardare la televisione. Insomma, non se la passerà malissimo, secondo me c'è tutta la materia, conoscendo anche il personaggio, buona per fare un altro reality show. Questo comunque è Lil Wayne, ospite Eminem, è il singolo che ci ha lasciato così per occupare l'etere mentre lui sta dietro le sbarre. I got ice in my veins, blood in my eyes, hate in my heart, love in my mind. I seen nights full of pain, days are the same. You keep the sunshine, save me the rain. I search but never find, hurt but never cry. I work and forever try, but I'm cursed, so never mind. And it's worse, but better times seem further and beyond. The top gets higher, the more that I climb. The spot gets smaller, and I get bigger, trying to get in where I fit in. No room for a nigga, but soon for a nigga, it be on, motherfucker. Cause all this bullshit, it made me strong, motherfucker. So I pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker, I'm gone. I know what they don't wanna tell you. Just hope you're heaven sent and you're hell proof. I walk up in the world and cut the lights off, and confidence is a stain they can't wipe off. Huh, my word is my pride, but wisdom is bleak, and that's a word from the wise. Served to survive, murdered and bribed, and when it got too heavy I put my burdens aside. So I can pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker, I'm gone, I'm gone. It hurts but I never show, it's pain you'll never know. If only you could see just how lonely and how cold and frostbit I've become. My back's against the wall, when push come to shove I just stand up and scream fuck 'em all. Man, it feels like these walls are closing in, this roof is caving in, but it's time to raise it then. Your days are numbered like pages in my poker rhymes, got them cooking, boy, this crooked mind of mine. Got them all shook and scared to look in my eyes. I stole that fucking clock, I took the time and I came up from behind and pretty much snuck up and butt fucked this game up. Better be careful when you bring my name up. Fuck this fame, that ain't what I came to claim, but the game ain't gonna be the same on the day that I leave it. But I swear one way or another, I'm I'ma make these fucking haters believe it, I swear to God. Won't spare the rod. I'm a man of my word, so your fucking head's better not. I'ma fuck around in this bitch and roast everybody. Sleep on me, that pillow is where your head'll lie. Permanently, bitch, it's Betty Bye. This world is my Easter egg, yeah, prepare to die. My head is swole, my confidence is up, the stage is my pedestal. I'm unstoppable, incredible Hulk, you're trapped in my medicine ball. I can run circles around you so fast your fucking head is spinning, dog. I split your cabbage and your lettuce and olives. I fucking pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker. I'm gone, I'm gone. Anni 10. Parole. This is all because of you. That's not like a song. It is a song. It's all because this of you. This is all because... Do you feel like the queen walking into this night onto this carpet? No, no, come it's on. Scary. Sentite come sono tutti eccitati questi conduttori radiofonici americani perché è arrivata in studio una scrittrice. Di solito mica le accolgono così. Le accolgono così se si chiama Stephanie Meyer, ovvero, oltre che una scrittrice, una specie di regina Mida, non so come si chiamasse la moglie di Re Mida. Comunque, insomma, una che ha trasformato veramente in oro la sua idea, la sua intuizione. In questa parte scritta, diciamo così, di Anni 10, oggi parliamo veramente di libri strettamente connessi, interlacciati con la cultura popolare, non direi americana, direi planetaria, e non a caso partiamo proprio da colei che ha inventato Twilight, la serie, la saga e tutto quel mondo, no? Dove sì, ci sono i vampiri, ma chi avrebbe mai detto che i vampiri improvvisamente nel 2010-2009 diventavano il nuovo oggetto di culto, stavano lì un po' impolverati da una parte con i loro pastrani, invece adesso sono splendidi, giovanissimi e protagonisti di hit dappertutto, al cinema, in libreria e quant'altro. Un paio di notizie riguardano Stephanie Meyer, per cui vale la pena di parlarne. Una è l'annuncio dell'uscita di un altro libro, di una specie di spin-off della serie Twilight. Naturalmente si spreme, no? Abbiamo visto con Harry Potter come si fa, e qui le cose sono più o meno le stesse. Ebbene, uscirà un libro intitolato The Short Second Life of Bree Tanner, in pratica una storia parallela, un romanzo di più breve degli altri, sono un paio di centinaia di pagine, in cui viene raccontato un prequel, l'antefatto, da dove viene una nuova vampira che entra poi a far parte della grande famiglia dei vampiri di cui tutti sappiamo e seguiamo le imprese Bella, i Cullens e quant'altro. L'altra novità è che l'ospite, che è un altro filone narrativo creato da Stephanie Meyer, ma forse sarebbe meglio dire, per essere un po' cattivi, dall'equipe, dall'entourage, dalla Factory Stephanie Meyer, perché nessuno può scrivere tante cose come stiamo capendo che avrebbe scritto lei. Bene, l'ospite sta diventando un film. Qui non ci sono più vampiri, qua ci sono invece dei visitors. Se avrete magari avete letto il libro, è già pubblicato in Italia, si chiama appunto L'ospite, anche questo è una serie. Ci sarà un film molto qualificato, perché a dirigerlo è Andrew Niccol, l'uomo che ci permettiamo di dire probabilmente ha fatto il più bel film di fantascienza degli ultimi 20 anni, quello che si chiamava Gattaca, molto poco visto, molto poco commentato, eppure di grande bellezza. Anche Lord of War poi è di questo Andrew Niccol. Bene, Stephanie Meyer verrà portata al cinema da questi grandi nomi. Do you know me? It's frightening how many novels of suspense I've written. But still, when I'm not recognized, it just kills me. So instead of ci fa ridere, perché questa è una pubblicità, dovete sapere che questa è una pubblicità dell'American Express, però messa insieme in modo assai bizzarro da niente meno che Stephen King, che per l'occasione faceva strapagatissimo certamente, testimonio, e dava questa ambientazione tetrissima da paura all'idea che per salvarsi la vita conviene comprarsi una carta di credito. Erano altri tempi, Stephen King nel frattempo è diventato, siamo sempre nel terreno della cultura popolare americana coniugata in forma di libri, è diventato, no, la divinità che sappiamo, che tutto il mondo adora ed attende, e anche lui ha fatto sapere che ha un nuovo libro in uscita. La notizia vale la pena di essere utilizzata, non tanto perché ce n'è un altro, lui ne fa tanti, sappiamo bene quanto sia ricca la sua produzione, ma perché torna a un sottogenere che i suoi seguaci, soprattutto in America, particolarmente adorano, che è poi il baseball. Lui aveva già scritto un romanzo di baseball, si chiamava La ragazza che amò Tom Gordon, ora torna a fare un romanzo interamente ambientato nel mondo del baseball, si chiama Blockade Billy. A lui piace un sacco lo sport della palla della mano, e racconterà la storia questa volta di un giocatore, William Blakely, dimenticato, scomparso da tutti i libri di storia del baseball, perché naturalmente porta con sé un terribile segreto che i lettori potranno scoprire. La cosa divertente è che lui ha sempre queste idee, è un personaggio straordinario Stephen King, con le prime alcune, non so, centinaia, migliaia di copie del libro in circolazione, ci sarà anche in omaggio la figurina, i ragazzi americani adorano le figurine del baseball, la figurina di questo giocatore immaginario. E adesso prendiamo fiato e diamo fiato invece a Stephen King, che non so se lo sapete, ma suona anche il rock and roll. Questa è la sgangheratissima band di Stephen King, con la quale lui si diverte a suonare nel... Lui non si è mai mosso, no? dalla sua terra, dal suo Maine, vive sempre lì da quelle parti, Bangor e dintorni. Lì ha avuto il terribile incidente, tra l'altro, che lo mise a rischio di vita una decina d'anni fa, mentre si faceva la sua tipica passeggiata, no? Per quelle strade con i saliscendi, in quegli scenari meravigliosi dell'alto New England, e poi la sera si va a fare una birra con gli amici e nel pub suona il rock and roll. Anche questa è cultura popolare americana che è messa, come dire, a dura prova da questo nuovo genere letterario del quale già vi abbiamo parlato, ma che sta diventando a tutti gli effetti un business e anche una sottocultura. Allora ne torniamo a parlare. Il genere si chiama mashup, e in che cosa consiste? È una roba veramente strana, solo gli americani intossicati di televisione se la potevano inventare. Consiste nel prendere una serie di oggetti sottoculturali tipici, no, della crescita adolescenziale degli americani, gli zombie, ninja, mostri, vampiri, quello, e mescolarli con invece monumenti della cultura americana. Vi parlammo di un Abramo Lincoln che diventava cacciatore di vampiri, adesso vi parliamo di Pride and Prejudice and Zombies Dawn of the Dreadfuls, che è il prequel, pensate già ormai che micidiale affare hanno messo in piedi, ma insomma che in micidiale produzione c'è di questo genere che si chiama mashup, un libro fermato a quattro mani. Due mani sono della ottima Jane Austen, che si rivolterà nella tomba, perché qual è il segreto di queste storie? Che questi libri sono il pubblico dominio, ovvero appartengono agli americani, quindi loro se li possono prendere e mettere insieme alle mani di Jane Austen anche le proprie, nella fattispecie quelle di un nuovo autore che si chiama Steve Hawkensmith, che non è nessuno, sarà uno studente della Università di California, che ha messo un bel po' di zombie, di morti viventi, di fantasmi che se ne vanno a spasso dentro l'intreccio di Orgoglio e Pregiudizio. L'effetto ve lo lasciamo immaginare. The road will not be easy. You will be sorely tested. You will face derision and scorn from the very souls you must promise to protect. And you will persevere. You must persevere. Your days of ease E questo è il trailer che sta lanciando sulla rete, perché poi naturalmente questi libri sono degli effetti mediatici molto connessi al presente, quindi godono di questi trailer che vale la pena di andarsi a vedere, forse più di leggere lo stesso libro, in questo caso fatelo. Pride and Prejudice and Zombies, Orgoglio, Pregiudizio e Zombies, se lo digitate su internet arrivate a vedere questo microfilmetto molto divertente in cui appunto gli zombie e i personaggi di Orgoglio e Pregiudizio si incontrano nel più improbabile degli intrecci. E usiamo queste note per darvi alcune notizie invece che, come dire, sono un po' la summa di questo viaggetto nella cultura popolare americana libraria di oggi, che sono poi i risultati ufficiali, ufficializzati, definitivi delle vendite americane nel 2009. Sono molto interessanti i numeri più che i titoli, perché i titoli sono i soliti, ovvero il libro che ha venduto di più di fiction è Dan Brown, Lost Symbol, al secondo posto c'è Grisham, al quinto c'è James Patterson, al sesto c'è di nuovo Grisham, poi c'è Stephanie Meyer, poi c'è Stephen King, Under the Dome, poi c'è Michael Crichton, Patricia Cornwell, insomma i consolidati campioni di vendita del mercato americano. Ma le cose impressionanti sono veramente le cifre, anche per avere idea di quale sia il mercato di cui stiamo parlando. Bene, Dan Brown con il suo libro ha venduto certificate 5 milioni e mezzo e oltre di copie, sono cifre eccezionali, straordinarie. Pensate che i primi 7 titoli sono tutti sopra il milione di copie vendute, ma la cosa che sorprende ancora di più è se si va alla non fiction, ovvero alla saggistica, dove si scopre prima di tutto che Sarah Palin, volenti o nolenti, alla fine ha pubblicato il libro di saggistica più venduto in America nel 2009, il suo Going Rogue in American Life, la sua biografia, ma soprattutto questo libro ha venduto 2.674.684 copie, che sono veramente un quantitativo eccezionale. Ci sono in questa classifica altri nomi interessanti che spesso ricorrono alle nostre parti, come Glenn Beck, come l'autobiografia di Ted Kennedy pubblicata poco prima della sua morte, che ha venduto comunque 870.000 copie. C'è la dimensione di un mercato librario vivace, forse più di quelli di altri mercati paralleli come quello discografico o cinematografico, per cui ci si può permettere poi anche di inventarsi Pride and Prejudice and Zombies, dove la cosa divertente è che la copertina è la stessa di Orgoglio e Pregiudizio, però al posto della bella signora, no, che siamo abituati, quel famoso dipinto che siamo abituati a vedere figiato su quella copertina, gli hanno tolto la faccia, come dire, c'è uno scheletro, perché questi, come dicevamo, sono studenti californiani un po' birichini e giocano col grande mescolo della cultura popolare. Cultura popolare, che è poi il principale oggetto di interesse e di indagine di questo programma, che si chiama Anni 10, lo faccio io, sono Stefano Pistolini, con me Gloria Guerrero in redazione, Valerio Rocchetti in regia. Abbiamo una mail, anni10@radio24.it, abbiamo delle pagine Facebook che potete usare, fatelo, sia per contattarci che per capire o ricordare di che cosa abbiamo parlato. Le pagine si chiamano Anni 10, 10 scritto in parola, e Anni 10 Radio 24, dove ci sono tutti i link per arrivare ai prodotti che abbiamo presentato. Di nuovo buona Pasqua, ci sentiamo tra una settimana.